Oddio, Cappa, ma tu di Cappa di sì, no, il formatore, di Alghero. Lo pagata a me. In 10 anni? Lo sto ancora pagando. Ma lei vuole cambiare, uscirò. Sì, faccio solo sei giorni. la libera. Mi avrebbe messo che stai andando a libera. Non so se la situazione l'ha fatto. Grazie. tranquillo. E mia mamma era così. Ma tuttora è così mio padre, tuttora che ha 94 anni, sta puntato quando si deve partire. La vita continua. Era meglio che abbiamo avuto un sempre con lo stesso logo di Aiken, però con questo disegno, c'è un disegno strano dell'antenna e dell'ombra. Va bene, grazie, non ti trattengo, grazie delle prove, ci risentiamo più tardi, anch'io ve lo posso guardare nella televisione. E sentiamo se c'è Gianni ancora, ascolto il passaggio, dopodiché vengo qua e vado a guardare. Presto, anche perché ovviamente uno ci deve lavorare, che deve lavorare fa pagare il lavoro, c'è poco da fare. Ma meno male che anche questo funziona. Sembrava peggio la situazione, invece tutto sommato siamo andati bene. Ma sei carissimo, ma no, sto dicendo, guarda, che è una bomba. Uno, la modulazione è perfettissima. Capito, di solito il balanciere laterale non riesce a centrare proprio perfettamente. Questo che è proprio centrato, sembra una M, cavolo. Mi gusta tutto, Ma quello che ti fa qui già, nulla. Come si faccia a sintonizzare? Su frequentimetro 27 205.00, tu invece stai trasmettendo già a 27 203, a 27 203, quasi 202. Fate il conto un altro quanto è portato. Parecchio, io non ce la fa col fine tune, non ce la fa a trovarlo, lo sento ancora molto fuori frequenza, ma poi per fare quel lavoro ci vogliono apparecchiature, anche apparecchiature serie, ci vuole gente competente, apparecchiature serie, perché se no si spendono i soldi inutilmente. Oh, sono contento, e poi un bel bestione, guarda, dico, pesante dentro, è fitto di circuiti, ma proprio fitto, bello ma massoso. Hai capito tu qual è già questa radio qua? È in orizzontale, c'è tutto frontale in alluminio, cromato e nero, e poi ci sono gli strumenti, due strumenti più l'indicatore del canale con l'orologio digitale, che rimangono coperti da uno schermo di plexiglass blu scuro, e dentro quando è acceso le luci rimangono rosse e tenue, gli strumenti non è che sono forti, li vedi tenue, molto, molto particolari. C'è la roba di 8 manopoloni, di quelli in alluminio, quelli massicci, è un bel bestione. Hai che in ottavo? Beh, se frughi poi su internet lo vedi. E lo vado a cercare perché mi interessa sapere le cose. Non l'ho mai visto, perlomeno, ci sono apparecchiature che in America vanno alla grande, qui non si conoscono nemmeno. C'era uno di quei Magnum in vendita, l'ha messo all'asta e poi ce l'ha comprato subito, mi pare 280 euro. Forse per un altro parlante esterno. Ma se siamo a capo di cielo praticamente c'è così, e quelle due taglie che una poi non abbia la cuffia, l'altra c'è scritto il record. Cosa vuol dire? Registratore, permette il registratore, adesso si riesce a vedere. Aspetta anche intanto, ci stacco le cuffie, vediamo se mi fa sordo o meno. Ah, ecco, le cuffie funziona. No, no, mo, cazzo, le sente bene, eh. Aspetta che provo quell'altra presa lì, che cosa succede? Vediamo se mi spate il tipo, eh. Ho mangiato leggero. che siamo stati lì con soldati che è stato con la paura. Piccolino, e c'è un bel altro. Era lì. Allora, vai? Ciao Luca, non c'è Twitter, come va? Tutto bene, sì. E voglio comunque migliorare un tantino rispetto alle altre volte. Ci ha parlato di Agua, ultima, per un po' la truppa. E senza saltare, senza mezzo, sono andando alla madre. Come si chiama il progetto di Claudio? Capitano, se guardi se ti è Claudio. periodi, perché poi sono vicino a una cosa da fare, a riprendere la carica di treno, se tu non hai più nessuno. E il tema sono questi ultimi due giorni che magari c'erano altri interessi. Scusami, tra mani, non mi va a prendere quello che le piace, che vuole dare di là tutti. Allora, chi vuole guidare a fare il certo numero, possiamo fare il suo orario. Ma se invece l'hai poi, prendo il certo numero, c'è una qualità, e se no, rimane silente, devo dire, c'è. Non c'entra niente quello. Io mi ho sempre avuto la apparecchiatura grossa, quando c'era gente parlavo, quando c'era nessuno rimane colpito, l'ho ordinato. E lo so, ma se le prende per mettere un danno, sono venuto in ascolto, un certo danno, oppure le lascio dove sono. Già, voi non ci siete tutto il giorno, io sono a casa, siamo tracce del radio, ho preso tracce del radio, Luca lo stesso, capito, è una traccia che era poi basta, non è più grande, capito? Se noi ci abituiamo a entrare in funzione, allora ci trattiamo di più. Luca, mi sembra che